Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 21 maggio 2015. Gli ecotrend guidano il mercato alimentare, dal boom delle bevande naturali ai marchi verdi. Si susseguono nel settore alimentare notizie che indicano negli ultimi mesi il prevalere della tendenza verde. Sostenibilità è la parola d'ordine che abbraccia tutti gli aspetti e le fasi dell'attività del settore, dalla progettazione alla distribuzione di cibi e bevande. Persino McDonald's ha comunicato di avere raggiunto l'annunciato obiettivo di rendere sostenibile l'approvvigionamento di olio di palma. Altro segnale chiaro viene dal comparto dei prodotti conservati organici e naturali negli Stati Uniti. Tra il 2010 e il 2015 il mercato è cresciuto del 103%, le vendite annue hanno superato i 78 miliardi di dollari. Fin qui la notizia del 21 maggio 2015, ma come diciamo sempre il futuro ha radici nel presente in questo 2012. L'attenzione a combinare prodotti facili da preparare, gusto e attenzione all'ambiente la ritroviamo nelle parole degli studenti che hanno conquistato il primo e il secondo posto al concorso Ecotrofeglie Italia 2012. Filippo Villani, referente del gruppo Foodprint dell'Università di Milano, e Giovanni Bonfanti della seconda classificata Groupon della Cattolica, sede di Piacenza e Cremona. Abbiamo visto che è minore la disponibilità per lavare i piatti, per cucinare, per mangiare. È un prodotto con una lunga preparazione che va tenuto per esempio in frigorifero o che necessita di più passaggi per la preparazione, è un piatto che in questo momento non avrebbe molto mercato. E noi invece abbiamo cercato di ridurre i tempi, di minimizzare i volumi, di ridurre gli spazi, i costi di trasporto. Tutto questo cercando di fornire un piatto che deve essere buono. E abbiamo deciso di realizzare un prodotto shelf stable che quindi si conserva a temperatura ambiente per 150 giorni, che consente un elevato risparmio di energia appunto con la minimizzazione delle CO2 emission. Il risparmio che il nostro prodotto consentiva tenendolo fuori dal frigorifero e quindi risparmiando l'energia del frigorifero per 1,5 milioni di pezzi al mese era il risparmio che si ha con 800 lampadine da 60 watt tenute accese per un mese consecutivo tutto il giorno. Il nostro prodotto è una salsa integrale di pomodoro, praticamente è un sugo dove noi abbiamo utilizzato al posto dell'olio di oliva abbiamo utilizzato olio di semi di pomodoro. Il prodotto è stato ideato per un'azienda che già opera nel settore del pomodoro, di modo che avesse già una linea produttiva, diciamo, tradizionale dove potesse recuperare questi semi di pomodoro che sarebbero uno scarto, trasformarli in olio e quindi ottenere un ingrediente per questo nuovo prodotto. Il gusto è effettivamente un po' diverso, ma questo è dovuto al fatto che il consumatore italiano è abituato da sempre a mangiare il sugo con olio di oliva. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.